Mary Shelley, I miei sogni mi appartengono. Lettere della donna che reinventò la paura. L'Orma Editore. A Percy Bysshe Shelley. Londra, 3 novembre 1814. Amore carissimo, devo ammettere che sono davvero delusa. Ritenevo Isabel una persona estranea a ogni pregiudizio, idolatra la figura di mia madre e le sue idee, ma poi un uomo sposato è un uomo sposato. È impossibile far entrare in zucca certe persone che Harriet è fredda ed egoista e che se solo lo volesse, mio padre potrebbe essere felice, indipendentemente dalle mie azioni. Si blatera addirittura che abbia venduto sua figlia. Ma così va il mondo, mio caro. Come ragioni e filosofeggi bene sull'amore. Se lo avessero chiesto a me, non sarei stata in grado di spezzare neppure mezza lancia in favore di questo sentimento. Eppure sono convinta quanto te della sua nobiltà. E non resisto quando si tratta di dimostrare le mie teorie. E per il momento addio. Suonano le 8 e fra un'ora o due ti starò augurando buonanotte. Ed eccomi infatti adesso, con la vecchia storia di scriverti che vorrei dirti buonanotte invece di scrivertelo. Eh sì, è una storia che si è fatta ormai davvero vecchia, ma spero che questo sia il suo ultimo capitolo. Ti vedrò domani, amore mio, e se avrai trovato i soldi, e davvero li devi ottenere, sfideremo i nemici e gli amici, che a quanto sembra sono uno peggio dell'altro, e non ci lasceremo più. Che delizia di frase! Rallegrerai i miei sogni. La tua Mary, che ti ama. A Percy Bysshe Shelley, Clifton, 27 luglio 1815. Mio amato Shelley, quello che ti sto per scrivere non è frutto di una fisima ingenerata da un momento di abbattimento, ma è una richiesta seria e precisa che ti chiedo di adempiere. Non dobbiamo più stare lontani. Mi rende infelice. Mi ritiro nella mia camera e non c'è il mio dolce amore. Ceno e Shelley non è da nessuna parte, anche sottonnellati di dettagli da raccontare. Per farla breve, o torni o vengo io. Mi obietterai che non possiamo sospendere la ricerca di una casa, di un bel focolare per noi due. Neanche io vi rinuncerei per nulla al mondo, ma so cosa significa cercare un alloggio e fidati, è un'impresa molto molto lunga, troppo lunga per intraprenderla da soli senza il proprio amore. Siamo già da tanto tempo separati e di una casa non si vede neanche l'ombra, e seppure ne trovassi una, in meno di una settimana ci sarebbero comunque ancora mille cose da sistemare. No, amore mio, non posso restare ancora lontana da te, quindi se non vorrai accordarmelo, verrò anche senza il tuo permesso. Sono stanca di questi giorni senza la speranza di vederti. Domani è il 28 luglio. Non dovremmo proprio essere separati in questo giorno e la tua assenza, qualche lacrima me la strapperà. Non arrabbiarti, amore caro. La tua Pexi farà la brava e già si sta riprendendo, eccezion fatta per il mal di testa che le viene a furia di aspettare trepidamente le lettere del suo amore. A Thomas Jefferson Hogg, amico di Percy, gennaio 1815. Carissimo Hogg, mi hanno lasciato sola e allora non trovo altro di meglio da fare che prendere la penna e scriverti due parole, visto che credo che stamattina non verrai a trovarmi. Dici che mi ami. Penso che potrei contraccambiarti con la passione che meriti, ma sei molto buono e mi assicuri che ti accontenti anche dell'affetto che già provo per te nel profondo del mio cuore. Sei così generosa e altruista che è impossibile non amarti. Ma sai che ci conosciamo da poco e all'amore semplicemente non avevo ancora pensato. Verrà con il tempo e allora saremo più felici degli angeli che cantano nei secoli dei secoli. Amico mio, un roseo futuro ci attende, bello, e che lo rende certo del tutto dipendente da noi. E non c'è bisogno che prometta nulla a me stessa, a Shelley o a te, perché sono sicura che sai bene che mi dedicherò con tutte le mie forze alla tua felicità. Provo per te un tale affetto e sarà per me un compito leggero e facilissimo. Ma quante inutili chiacchiere. Ti dico cose che già sai e fra poche ore ti vedrò di persona. Non starmi neanche a rispondere. La tua, Mary. A Thomas Jefferson Hogg, 7 gennaio 1815. Carissimo Hogg, sono sicura che saremo tutti molto felici. Il mio affetto per te, che non è ancora come tu lo desideri, crescerà E sarà di giorno in giorno più simile a come tu lo vuoi, sommandosi alla tua felicità. Ti chiedo solo tempo, caro Og, tempo perché sbocci l'amore che meriti e che un giorno avrai. Per adesso è solo una dolce speranza, ma che ci importa di essere prudenti? Cercherò di farti felice. Tu dici che è il mio potere. Tua, con grande affetto, Mary. A Thomas Jefferson Oak, 24 gennaio 1815, lunedì mattina. Stasera, carissimo Alexi, rientrata a casa, spero che tu possa trovare questa mia lettera a rallegrare la tua solitudine e che tu possa leggerla e baciarla prima di andare a dormire. Mio Alexi, so quanto mi ami e con quale tenerezza, e gioisco pensando che sono in grado di costituire la tua felicità. Aspettiamo trepidanti le gioie dell'estate, quando gli alberi sono verdi e il sole risplende di gioia, e quando mio caro Og avrò la mia bambina. Passeremo il tempo con una piacevolezza senza fine. Mi insegnerà l'italiano e quanti libri leggeremo insieme. Ma la nostra felicità più grande sarà in Shelley. Io lo amo teneramente con tutto il mio cuore. La mia vita è appesa al filo del suo sguardo, la mia anima è chiusa nel suo abbraccio. Tu sei suo amico, sincero, e saprai renderlo felice. No, non avremo bisogno neanche di provarci, perché ogni nostro gesto lo renderà felice senza bisogno di sforzo o intenzione. Carissimo Alexi, lo spettacolo del suo amore e della sua tenerezza sarà una gioia che ti farà scoppiare il cuore e versare lacrime più dolci dei sorrisi degli innamorati. Buonanotte e buoni sogni al mio Alexi, Mary. A un destinatario sconosciuto. Ginevra, 17 maggio 1816. Qui non frequentiamo nessuno e ci teniamo fuori dalla società, ma il tempo vola che è un piacere. Durante la canicola meridiana leggiamo libri in latino e in italiano e al tramonto passeggiamo nel giardino dell'albergo. Guardiamo i conigli, soccorriamo i maggiolini caduti in terra e contempliamo i movimenti di miriadi di lucertole che popolano il muro a sud del parco. Come sai, siamo appena scappati dal buio di Londra e dell'inverno. E ora, in questo luogo delizioso, benedetto da un clima divino, sono felice come un uccellino che ha appena messo anche l'ultima piuma e non bada al ramo su cui si posa, ma vuole solo provare le ali nuove nuove. Un volatile con maggiore esperienza sarebbe più difficile nell'accontentarsi di un qualsiasi pergolato, ma il mio umore attuale, i fiori in sboccio, l'erba fresca della primavera e le creature che vivono e si godono questi piaceri qui, attorno bastano ad assicurarmi una gioia purissima. E che importa se le nubi nasconderanno il Monte Bianco al mio sguardo? Addio, Mary Shelley. A Maria Gisborne, Pisa, 6 aprile 1822. Mia cara signora Gisborne, 2 domeniche fa Lord Byron, Shelley, il capitano Hay, il conte Gamba e Taffy erano di ritorno dalla loro solita cavalcata serale. Quando, vicino a porta della piazza, si trovarono di fronte a un soldato che passò al galoppo in mezzo a loro, urtando con forza contro Taffy, il quale, da bravo gentiluomo, esclamò: «Dobbiamo forse tollerare l'insolenza di quest'uomo?» Lord Byron rispose: «No, gli chiederemo soddisfazione». E Shelley, cui va sempre il sangue alla testa di fronte alle prepotenze di un militare, aggiunse: «Sono con voi!» Così spronarono i cavalli, ossia tutti tranne Taffe, che se ne restò indietro buono buono. Inseguirono l'uomo e lo fermarono, immaginando che fosse un ufficiale. Gli chiesero nome e indirizzo, porgendogli i loro biglietti. Il soldato, che credo fosse mezzo ubriaco, replicò, sacramentando e sciorinando tutto il campionario di bestemmie e imprecazioni di cui l'italiano è così prodigo, e concluse il suo discorso dicendo: «Se solo volessi, potrei sguainare la mia sciabola e farvi a pezzi, ma mi contenterò di arrestarvi». E rivolgendosi alle guardie di stanza alla porta, gridò: «Arrestateli!». Lord Byron gli rise in faccia e con un «Arrestateci pure!» si lanciò al galoppo verso la porta, seguito dal resto della compagnia. Byron e Gamba riuscirono a passare, ma prima che gli altri avessero attraversato il passaggio, il soldato tagliò loro la strada. Gridò nuovamente alle guardie di fermarli e cominciò ad assestare fendenti con la sua sciabola. Nel frattempo io e la contessa Guiccioli eravamo spettatrici degli accadimenti da una carrozza poco dietro il gruppo. Puoi immaginarti la paura che ci prese nel vedere i nostri cavalieri completamente disarmati subire un attacco così violento. Si salvarono grazie alle esigue dimensioni del campo di battaglia. Si strinsero all'uomo e riuscirono a fermargli il braccio. Il capitano Hay ne uscì comunque con una ferita al volto e Shelley cadde da cavallo. Non so più dire come finì, ma a un certo punto, dopo aver distribuito qualche altro colpo, il soldato rinfoderò la spada e si dileguò a cavallo. Al che i nostri scesero dai destrieri per soccorrere il povero Hay, che era svenuto per la perdita di sangue. Lord Byron cavalcò fino a casa, dove si fece dare un bastone animato da uno dei suoi servitori, e stava tornando verso la porta per illungarlo quando incontrò l'uomo che, alzando il braccio, gli chiese: «Non vi è bastata?» Byron rispose: «No, devo conoscere il vostro nome per potervi chiedere soddisfazione.» Il soldato rispose: «Il mio nome è Masi, sono sergente maggiore, eccetera, eccetera.» Mentre i due parlavano, arrivò un domestico di Byron e prese le briglie del cavallo del militare. Il padrone gli ordinò di lasciarle e il sergente, senza colpo ferire, se ne scappò al galoppo, ma giusto davanti a casa Lanfranchi fu visto da uno dei servi di Byron, il quale, convinto che avesse ucciso il suo signore e stesse fuggendo, lo rincorse armato di forcone e lo ferì. L'uomo proseguì la sua corsa per qualche altro metro, gridò: «Sono ammazzato!» e cadde da cavallo. Fu portato all'infermeria della villa, mentre la campana della misericordia suonava all'impazzata. Eravamo tutti riuniti a casa Lanfranchi a prenderci cura del ferito e la povera Teresa sembrava stare ancora peggio di lui dallo spavento che si era presa, e calò il gelo quando la ferita venne diagnosticata come mortale. Per fortuna solo noi sapevamo chi lo avesse colpito, ma tra i pisani si sparse subito la voce che fosse stata opera di uno dei famigli di Byron, su istigazione del padrone, e nella loro arguta saggezza pescarono a caso un poveraccio che fu incolpato solo perché aveva lo sguardo fiero quanto un assassino. Per giorni le condizioni di Masi rimasero critiche, ma ora è fuori pericolo. Finché sembrava che stesse morendo, il governo non fece assolutamente nulla. Adesso che invece sta quasi bene, hanno messo in galera due uomini, un servo di Byron, quello dallo sguardo fiero, e uno di Teresa, che era dietro alla nostra carrozza. Sono del tutto innocenti, ma sono rinchiusi da 10 giorni ormai, e Dio solo sa quanto saranno rilasciati. Che ne dici? Basterà come avventura primaverile? Ora è finita, ma in genere il nostro destino è stato sempre in accordo con Madre Natura. I venti di marzo e le piogge d'aprile portano i fiori di maggio. Tua per sempre, Mary Shelley. A Maria Gisborne, Casa Magni, 2 giugno 1822. Ma prima di tutto devo aggiornarti sugli sviluppi della storia della zuffa. Nella mia ultima ti ho lasciato con il sergente in convalescenza, il servitore di Byron e quello di Guiccioli in prigione, benché innocenti. Il giudice, chiamato cancelliere, inviato da Firenze per decidere della questione, disprezzi i pisani e, ricevendo poca paga, ha richiesto un regalo da Milordo e ha quindi favorito la nostra parte. È stato molto civile e in barba alla legge. È venuto a prendere la deposizione direttamente a casa nostra. Hogue avrebbe potuto fare tesoro di questa lezione su come gestire un controinterrogatorio. Il cancelliere, un buffone di fiorentino che non la smetteva mai di parlare, con mille scuse per l'incomodo, chiese: «Dove fu lei la sera del 24 marzo?» «Andai a spasso in carrozza fuori della porta della Piaggia.» Un segretario minuto, che gli sedeva accanto, sovrastato da una pila di scartoffie, intinse la pena nel calamaio con aria di attesa. Allora il cancelliere, alzando gli occhi al soffitto, scandì: «Io fui a spasso, eccetera.» La scena si ripeté identica per 2, 4, 6 ore. In 2 mesi si riuscì a prendere la deposizione di 15 persone. Tita, il servo di Byron, risultò del tutto innocente. Il cancelliere ordinò che venisse liberato, ma la polizia pisana aveva paura della sua barba. Lo chiamavano il Barbone. E anche se venne deciso che all'uscita di prigione sarebbe stato rasato, non riuscirono a tranquillizzare le loro menti acute e si risolsero a bandirlo dalla città. Come sia possibile che i pisani siano spaventati da questo mirabile mostro di un italiano, che il giorno in cui doveva essere rilasciato organizzò un banchetto per gli altri detenuti noleggiando piatti e candelieri, è un mistero. Il povero Antonio, il servo di Guiccioli, è ancora in carcere, dichiarato innocente, ma punito come un colpevole, e chissà quando lo faranno uscire. E questo è quanto. Sempre tua, Mary Shelley. A Maria Gisborne, Pisa, 15 agosto 1822. Mia cara Gisborne, ho scritto in una lettera a Peacock che ti avrei mandato un qualche resoconto degli ultimi ore di mesi della mia vita devastata. Giorno dopo giorno ho rimandato l'impresa, ma ora mi sforzerò di tenere fede al mio proposito. Sul palcoscenico della mia esistenza è calato il sipario e nessun piacere accompagna la ricostruzione delle scene che hanno preceduto l'evento che ha infranto ogni mia speranza. Eppure provo la necessità di farlo e obbedisco a questo impulso che mi incalza. Ti devo aver scritto a fine maggio o forse a inizio giugno, descrivendoti il luogo dove viviamo, la nostra casa isolata, la bellezza disturbante del paesaggio e la gioia di Shelley in questo contesto. Non credo abbia mai goduto di una salute e di un umore migliori. Io invece ero malata, nel corpo o nella mente, i nervi tesi e irritabilissimi e un senso di sventura che mi incombeva sul mio spirito. Nessuna lingua può esprimere quanto odiassi la nostra casa e la campagna che la circondava. Shelley me lo rimproverava, lui era in forma e il posto gli andava davvero a genio. Cosa potevo obiettare? Che gli abitanti erano degli odiosi selvaggi? Che benché il territorio fosse innegabilmente bello, io preferivo luoghi più coltivati che vivere lì era difficile, che tutti i nostri amici toscani stavano per partire e che di quei genovesi mi ripugnava persino la parlata. Queste erano le mie ragioni, ma i miei sentimenti non potevano descriversi a parole. La bellezza dei boschi mi faceva scoppiare a piangere e rabbrividire. Li detestavo con una tale intensità che ero felice quando il vento e le onde ci permettevano di prendere la barca e così evitare i sentieri ombreggiati e i veleti di alberi ammantati di rampi canti, che prima adoravo e ora mi opprimevano come un peso. Gli unici momenti di pace li trovavo a bordo di quella imbarcazione infelice, quando poggiavo la testa sulle sue ginocchia, chiudevo gli occhi e sentivo solo il vento e il nostro rapido andare. Il mio cattivo stato di salute può essere considerato responsabile della maggior parte di quelle sensazioni. Fare il bagno mi dava un certo sollievo. L'8 luglio, non sono sicura della data, rischiai un aborto spontaneo. La mia convalescenza fu lunga e venne rallentata da uno strano accadimento. Ma prima devo descriverti la casa. Il piano a cui vivevamo era fatto così. 1. È la terrazza che si estendeva per tutta la lunghezza dell'edificio ed era a picco sul mare. 2. La grande sala da pranzo. 3. È una scala privata. 4. La mia camera da letto. 5. La camera da letto della signora Williams. 6. Quella di Shelley. E 7. L'ingresso della scalinata principale. Torniamo a noi. Come dicevo, all'inizio Shelley era in perfetta salute, ma gli sforzi eccessivi che un giorno lo avevano sfiancato e l'apprensione derivata dalla sua malattia provocarono il ritorno dei suoi disturbi nervosi e delle sue visioni. Un ritorno violento, come nei suoi periodi peggiori. Se non sbaglio, accadde il sabato dopo il mio malore. Ero ancora troppo debole per camminare ed ero costretta a letto. Nel cuore della notte fui svegliata dalle urla di Shelley, che era entrato come un forsennato nella mia stanza. Ero sicura che stesse ancora dormendo e cercai di riportarlo alla coscienza chiamandolo per nome, ma lui continuò a gridare, suscitandomi un tale panico che saltai giù dal letto e attraversai il salone di corsa diretta alla camera della signora Williams. La mia debolezza mi fece cadere, ma ero così spaventata che mi rialzai immediatamente e l'amica mi lasciò entrare e raggiungere Shelley, che era stato destato dal mio scatto repentino. Egli affermò che non stava dormendo, era stato terrorizzato da una visione. Quando negò anche di aver gridato, fu però chiaro che si era trattato di un incubo e non di un'allucinazione. Ecco ciò che lo aveva atterrito. Aveva sognato che mentre era a letto, Edward e Jane erano entrati nella sua stanza. Avevano una forma mostruosa, con i piedi lacerati, le ossa che spuntavano dalla pelle, i volti pallidi eppure macchiati di sangue. Potevano a malapena camminare, ma Edward era evidentemente il più debole e Jane lo sorreggeva. Edward aveva detto: "Alzati, Shelley, la casa è allagata, sta crollando tutto." Shelley aveva avuto l'impressione di alzarsi veramente, di affacciarsi alla finestra che dava sulla terrazza e di vedere il mare che rompeva nella villa. Poi, di punto in bianco, la scena era cambiata e aveva contemplato l'immagine di se stesso che mi strangolava. Allora era corso nella mia stanza, ma per timore di spaventarmi non aveva osato avvicinarsi al letto. A quel punto la mia fuga lo aveva destato, o, come si espresse lui, aveva fatto dileguare la visione. Come se tutto ciò non fosse stato abbastanza terrorizzante, il mattino successivo, mentre parlavamo dell'accaduto, mi raccontò che nei giorni precedenti aveva avuto parecchie visioni. Gli era apparsa la propria stessa figura che gli veniva incontro mentre passeggiava sul balcone chiedendogli: per quanto ancora ha intenzione di essere così soddisfatto. Parole non particolarmente terribili, di certo non profetiche, di ciò che sarebbe poi successo. Quando era malato, Shelley era spesso preda di simili allucinazioni, ma la cosa più strana è che lo aveva visto anche la signora Williams. Ora, Jane è una donna con una sua sensibilità, ma non è certo dotata di grande immaginazione, non è affatto suggestionabile, né nei sogni né in altre situazioni. Il giorno prima che io mi ammalassi, se ne stava alla finestra che dà sulla terrazza con Trinlen Wee. Era mattina piena e vide Shelley passarle davanti, al suo solito senza giacca né cappotto, e poi lo rivide passare di nuovo provenendo dalla stessa direzione di prima, cosa che la sorprese perché sul balcone non c'è modo di fare il giro se non scavalcando un muro di quasi 6 metri. Allora si affacciò e non scorgendolo più gridò: Santo cielo, Shelley è saltato dal muro! Ma dove è andato? Shelley? Chiese Trinlen Wee. Shelley da qui non è proprio passato. Che intende dire? Trelawney raccontò che alla sua risposta la donna si mise a tremare come una foglia e venne poi fuori che in effetti quel giorno Shelley non era mai uscito in terrazza e anzi, nel momento in cui lei credeva di averlo visto, lui era fuori casa da tutt'altra parte. Non facemmo troppo caso a questi strani eventi e io continuai la mia convalescenza. Era giunta notizia che Hunt fosse salpato da Genova lunedì 1 luglio. Shelley, Edward e il capitano Roberts, il gentiluomo che ha costruito la nostra barca, levarono l'ancora da Livorno per andarla a ricevere. Io stavo meglio e cominciavo ad alzarmi dal letto per brevi passeggiate fino al balcone, ma alla malattia era succeduto il malumore e la partenza di Shelley aggiunse l'insofferenza ai miei malesseri. Non sopportavo l'idea che mi lasciasse. Lo richiamai indietro 2 o 3 volte, minacciandolo di andarmene a Pisa col bambino se non fosse tornato presto. Piansi lacrime amare quando partì. Jane, Claire e io rimanemmo sole con i ragazzi. Non potevo uscire e riacquistavo le forze solo molto lentamente. Il mio malumore cresceva. Lo pregai per lettera di invertire la rotta. Il sentimento di una qualche disgrazia imminente mi ossessiona, gli scrissi. Le mie paure si concentrarono su nostro figlio. Il timore che il pericolo incombesse su Shelley non mi passò mai per la testa. Mentre Jane e Claire si dedicavano alle loro passeggiate serali, io facevo la ronda sulla terrazza, oppressa dall'angoscia, anche se di fronte a me si stendeva il panorama più bello del mondo. Il Golfo della Spezia è suddiviso in molte piccole baie, di cui la nostra era la più incantevole. I due corni, per così dire, dell'insenatura sono promontori coperti di boschi e coronati da castelli. Ai piedi del corno più lontano c'è Lerici, di quello più vicino San Terenzo. In questo paesaggio, assistere al tramonto, all'apparizione delle stelle e al sorgere della luna era uno spettacolo mirabile, il quale però non faceva che esacerbare la mia ansia. Mi ripetevo le parole di consolazione che chiunque mi avrebbe detto e raccontavo a me stesso una storia credibile e verosimile di pace e amore, ma le lacrime mi salivano agli occhi. Il mio William non era forse già morto e potevo illudermi di avere un più saldo diritto di possesso su Percy. Eppure, pensavo, quando il mio Shelley sarà di ritorno, sarà di nuovo felice. Mi darò conforto e se il bambino si ammalerà, saprà farlo curare e infondermi coraggio. Ricevetti da lui un paio di lettere, in cui lamentava la difficoltà di trovare una sistemazione per i coniugi Hunt e la conseguente impossibilità di prevedere una data per il suo ritorno. Così una settimana passò. Lunedì 8 a Jane giunse una missiva da Edward, datata sabato, in cui raccontava di stare attendendo a Livorno Shelley, che si trovava ancora a Pisa. Il ritorno di Shelley era sicuro, ma proseguiva: se non arriverà lunedì, prenderò una feluca e tornerò al più tardi martedì mattina. Questo accadde lunedì, quel fatale lunedì, ma da noi il maltempo imperversò per tutto il giorno e non potevamo certo pensare che si sarebbero messi per mare con un tempo simile. A mezzanotte si scatenò una tempesta con tuoni e lampi. Martedì, una pioggia calma e costante cadde per tutto il giorno, il cielo piangeva sulle loro tombe. Mercoledì una brezza leggera spirava da Livorno, da noi in serata giunsero diversi velieri. Uno di questi ci portò la notizia che erano salpati lunedì, ma non volemmo crederci. Giovedì fu un altro giorno di vento favorevole e quando scoccò la mezzanotte ancora non avevamo avvistato le alte vele della nostra piccola barca a doppiare il promontorio. Cominciavamo a temere non la verità, ma che un qualche malore o qualche incombenza li avesse trattenuti. Jane si preoccupò talmente che decise di partire il giorno successivo per Livorno per capire cosa fosse accaduto. Arrivò il venerdì e con esso un mare burrascoso e venti forti. Jane era irremovibile e chiese di essere portata in barca a remi a Livorno, perché non c'erano feluche che potessero navigare con quelle raffiche. Mentre si preparava, la pregai di attendere almeno l'arrivo della posta, che veniva consegnata appunto di venerdì. Rifiutò, ma alla fine fu il mare a trattenerla. Si ingrossò così tanto che nessuna imbarcazione poté avventurarcisi. A mezzogiorno arrivarono le lettere. Ce n'era una di Aunt per Shelley che diceva: Per favore, dacci notizia del vostro arrivo perché abbiamo saputo del cattivo tempo di lunedì. Dopo la vostra partenza siamo in pensiero. Il foglio mi cadde di mano. Cominciai a tremare dalla testa ai piedi. Jane lo lesse ed esclamò: Allora è tutto finito. No, Jane cara, risposi con un grido, non è finito proprio niente, ma questa incertezza è insopportabile. Vieni, andremo a Livorno in carrozza, il più rapidamente possibile conosceremo il nostro destino. Percorremmo il golfo fino a Lerici, con la disperazione nel cuore. Appena giunte, fummo confortate dalla notizia che nessun incidente era stato segnalato, come ci assicurarono sarebbe di certo accaduto se fosse successo qualcosa. Eravamo ancora molto preoccupate e senza perdere tempo a riposarci, continuammo in carrozza per Pisa. Che spettacolo spaventoso dovevamo essere noi due, povere creature sconvolte alla guida di un cocchio, come Matilda, diretto verso il mare, per scoprire se ci attendeva un destino di infinita disperazione. Sapevo che Aunt era a Pisa, ospite a casa di Lord Byron, ma pensavo che quest'ultimo fosse a Livorno. Decisi che saremmo andati fino a casa Lanfranchi, dove saremmo scesi per porre a Aunt la tremenda domanda: Hai notizie di Shelley? Entrando a Pisa, l'idea di rivedere Aunt per la prima volta dopo 4 anni in simili circostanze e dovergli chiedere proprio quell'informazione mi parve così orrenda che con grande sforzo riuscii a resistere a un accesso di convulsioni. Lottai con tutte le mie forze per vincermi. Bussammo alla porta e da dentro qualcuno rispose: Che è? Era la domestica della signora Guiccioli. Lord Byron era a Pisa e Aunt ancora a letto. Quindi potevo andare a cercare il padrone e non svegliare l'ospite. Ne fui sollevata. Barcollai per le scale. Guiccioli mi venne incontro sorridente mentre io con un filo di voce riuscii a malapena pronunciare: Dov'è? Sapete alcuna cosa di Shelley? Non sapevano nulla. Aveva lasciato Pisa domenica e lunedì era salpato. Lunedì pomeriggio aveva fatto brutto tempo. Tutto qui. Lord Byron e la signora mi hanno poi raccontato che in quella sera tremenda assomigliavo più a un fantasma che a una donna in carne e ossa. Dai miei lineamenti sembrava emanare luce e il mio viso era pallidissimo. Parevo di marmo. Ah. Mi ero alzata dal letto in cui giacevo malata per intraprendere quella corsa disperata. Avevo viaggiato tutto il giorno e ora era mezzanotte. Rifiutandoci di riposare, procedemmo per Livorno. Non in preda alla disperazione, perché allora saremmo morte di dolore, ma ancora animate da una speranza bastevole ad agitare i nostri spiriti e quindi mantenerci in vita. Arrivammo dopo le 2 del mattino, fummo condotte alla locanda sbagliata. Non c'erano né Trelawney né il capitano Roberts, e non sapendo dove trovarli, fummo costretti ad aspettare fino al sorgere del sole. Ci gettammo vestite sui letti per dormire un po', ma alle 6 eravamo già di nuovo in giro per taverne a chiedere notizie dei nostri due amici. Trovammo Roberts al Globe. Ci venne incontro con un'espressione che sembrava confermare la nostra più atroce paura, e lì venimmo a conoscenza degli avvenimenti della settimana in cui erano stati fuori e delle circostanze della loro partenza per tornare da noi. Shelley aveva passato la maggior parte del tempo a Pisa, organizzando gli affari degli Hunt e cingendo d'assedio Lord Byron perché continuasse ad appoggiare la rivista. All'inizio aveva incontrato qualche difficoltà, ma alla lunga era riuscito a spuntare in entrambe le imprese. La signora Mason disse che da quando lo conosceva non l'aveva mai visto così energico e di buon umore, come la domenica 7 luglio in cui aveva preso congedo da lei. Col viso brunito dal sole, il cuore leggero e contento di essere riuscito a trovare una sistemazione confortevole per gli Hunt. Edward era rimasto a Livorno. Lunedì 8 luglio avevano passato la mattina a fare acquisti, comprando generi alimentari e simili per la nostra residenza isolata. All'inizio della giornata c'era stato un temporale, ma verso mezzogiorno il tempo era buono e il vento favorevole per raggiungere Lerici. Non vedevamo l'ora di partire. Robert suggerì: Restate fino a domani per essere sicuri che si sia davvero placato. E Shelley sarebbe pure rimasto, ma Edward era impaziente di tornare a casa e affermò che con quel vento in 7 ore saremmo arrivati e allora salparono. Shelley era in uno di quei suoi tipici attacchi di inspiegabile buon umore di cui anche tu sei stata testimone. Robert si accompagnò fino alla fine del molo e li guardò sparire all'orizzonte. partirono a luna. Viaggiavano a una velocità di circa 7 nodi. Verso le 3 Roberts, che era rimasto sul pontile, sentì il vento alzarsi sul golfo. Era quello che gli italiani chiamavano un temporale. Preoccupato di come la barca avrebbe affrontato la tempesta, chiese di salire sulla torre del porto e li individuò col cannocchiale a circa 10 miglia dalla costa, a largo di Viareggio. Stavano ammainando le controrande. La foschia della bufera, raccontò, li nascose poi al mio sguardo e li perse di vista. Quando il tempo si rimise, li cercai di nuovo, convinto che li avrei veduti tornare verso di noi, ma sul mare non c'erano barche. Questo al momento era tutto ciò che sapevamo, ma non disperammo. Potevano essere stati trascinati sino alla Corsica e, non conoscendone la costa, essere finiti chissà dove. I bollettini che ci arrivavano confermavano questa ipotesi. Fu persino detto che erano stati avvistati ancora all'interno del golfo. Decidemmo di fare ritorno a casa il più velocemente possibile. Invitammo un corriere incaricato di andare di faro in faro e di torre in torre per tutta la costa a chiedere notizie di avvistamenti e ritrovamenti. E alle 9 del mattino lasciammo Livorno, fermandoci solo un attimo a Pisa per poi proseguire per Lerici. Giunte 2 miglia da Viareggio, cavalcammo fino alla città per ottenere informazioni. La nostra disgrazia cominciò a rivelarsi. Una piccola imbarcazione e una botticella d'acqua erano state ritrovate a 5 miglia dalla costa. Edward e Shelley si erano fatti costruire da un calzolaio una piccolissima lancia fatta di assi sottili per poter scendere a riva senza bagnarsi. La nostra barca, infatti, pesca 1 metro e più. La descrizione corrispondeva, ma quella barchetta era molto ingombrante ed era verosimile che, in piena tempesta, avessero deciso di gettarla fuori bordo. La botte mi inquietava di più, ma anch'essa si poteva spiegare con ragioni analoghe. Devo aggiungere che Jane e io non eravamo più sole. Trinaway ci stava accompagnando. Continuiamo il viaggio verso casa e raggiungemmo il Magra intorno alle 10:30 di sera. Non riesco a descrivere quello che provai durante il guado di quel fiume, sentendo gli schizzi dell'acqua attorno alle nostre ruote. Mi mancava il respiro, soffocavo. Di nuovo temevo le convulsioni e lottai per mantenere il controllo, perché Jane non se ne accorgesse. Lungo il fiume vidi 2 grandi fiamme che splendevano all'altezza della foce. Una voce dietro di me gridò che quello doveva essere il suo sepolcro. Superato il Magra, tornai in me. Giunti alle Erici, fummo costretti ad attraversare la nostra piccola baia via mare. San Terenzio era illuminato per una festa. Che scena! Il mare che ruggiva, lo scirocco, le luci del paese mentre ci avvicinavamo a Remi e i nostri cuori desolati, che vedevano tutto attraverso il velo di un sudario. Attraccammo. Di loro non c'erano notizie. Era sabato 13 luglio e così aspettavo fino al 25, oscillando tra la speranza e lo sgomento. Mandavamo messaggeri lungo la costa, verso Genova o a Viareggio. A parte la lancetta, nessun altro ritrovamento era avvenuto. Ci portavano bollettini e resoconti. La nostra speranza si riaccendeva. Ma non posso descriverti l'agonia di quei 12 giorni, un universo di dolore in cui ogni momento è insopportabile ed è seguito da un altro ancora peggiore. Gli abitanti della zona non facevano che aggravare il nostro disagio. Sono come selvaggi. Durante quelle feste, uomini, donne e bambini, divisi per gruppi e separati per sessi, passavano la notte a ballare sulle spiagge vicino a casa nostra, correndo verso l'acqua e tornando indietro, urlando un'unica e ininterrotta canzone, la più odiosa mai composta, a quell'eterno vento di scirocco che non smetteva di soffiare di fronte al mare che echeggiava col loro lamento funereo. Giovedì 25, Trinaway partì per andare a Lerici, controllare quello che si stava facendo e capire il da farsi. Venerdì fui molto malata, ma al calare della sera dissi a Jane: se qualcosa fosse stato ritrovato sulla costa, Trinaway sarebbe già qui a raccontarcelo. Non ha ancora fatto ritorno e questo mi dà speranza. Verso le 7 di sera fece ritorno. Era tutto finito, ora tutto taceva. Erano stati rinvenuti su una spiaggia. Ecco quello che abbiamo dovuto sopportare. Che altro posso dire? Il giorno dopo tornammo a Pisa e qui siamo rimasti. I giorni passano uno dopo l'altro e così viviamo. Ti narrerò un'altra circostanza. Come ti ho detto, domenica Shelley prese congedo dalla signora Mason di ottimo umore. Non l'ho mai visto così felice come nell'ultimo sguardo che ho potuto posare su di lui, ci ha raccontato lei. Lunedì era morto. Lunedì notte Mason sognò di essere in un luogo che non riconosceva e Shelley le veniva incontro pallido in viso e oppresso da una tristezza spaventosa. Lei gli disse: «Sembri malato, devi essere stanco, siediti e mangia». «No», rispose lui, «non mangerò mai più. Al mondo non mi è rimasto più un soldo». Ma che dici? Replicò la signora. Questa non è una locanda, non devi mica pagare. E lui? Forse allora è anche peggio. Poi si svegliò e, riaddormentata, si sognò che il mio piccolo Percy era morto e si destò scoppiando in un pianto a dirotto, così cocente e disperato che si disse: Se anche questo bambino morisse davvero, non proverei così tanto dolore. Questi incubi la colpirono così profondamente che la mattina dopo li descrisse alla sua domestica, commentando che sperava che non ci fosse successo niente. Ecco la mia storia, l'ultima storia che avrò mai raccontato, sempre tua, Mary Shelley. A Thomas Jefferson Hogg, Kentish Town, 3 ottobre 1824. La felicità goduta e le sofferenze sopportate in Italia trasformano i piaceri e i fastidi del presente in semplici cambi di maschera. A volte per un po' riesco a entrare nello spirito del gioco, ma i miei affetti sono sepolti nel passato e la mia immaginazione resta spenta di fronte a una rappresentazione meschina e puerile, se paragonata alla gioia purissima del rapporto con il sommo Shelley, lo schietto appassionato Edward e altri meno ragguardevoli che però ora ricordo, con qui una lacrima sulla pagina, per aver fatto parte di una cerchia di eletti, sempre tua, Mary Shelley. A late aunt. 9 settembre 1823. Mio caro Hunt, ed ecco che mi sono ritrovata famosa. La riduzione teatrale di Frankenstein sta avendo un successo incredibile ed è alla 23ª replica di fila alla English Opera House. Il programma di sala mi è parso esilarante. Elencato nella lista dei personaggi c'era T. Cook nel ruolo di. Questo modo senza nome di nominare l'innominabile è davvero notevole. Venerdì 29 agosto, Jane, mio padre, William e io siamo andati a vederlo a teatro. Wallock era perfetto come Frankenstein. Alla fine del primo atto è ancora pieno di speranza e fiducia nel futuro. La scena rappresenta una stanza con una scala che porta al laboratorio di Frankenstein. Lo scienziato ci si rintana e una luce appare alla finestrella a cui si affaccia a spiare un servo, per poi fuggire terrorizzato quando Frankenstein esclama: È vivo! Poco dopo è lo stesso Frankenstein a scappare dalla camera in preda all'orrore. E mentre questo è ancora tutto preso a esprimere dolore e raccapriccio, abbatte la porta del laboratorio, salta sulla scala e si mostra sul palco in tutta la sua mostruosa e sinistra persona. La trama non è ben gestita, ma Cook recita il ruolo di Frankenstein ottimamente. Come cerca l'aiuto altrui, come prova a comprendere i suoni che ascolta, tutti i suoi gesti sono ben pensati e ben eseguiti. Mi ha divertito molto. Il pubblico sembrava galvanizzato e senza fiato dall'entusiasmo. La platea era una fossa minuscola, strapiena grazie ai biglietti a metà prezzo, e tutti sono rimasti sino alla fine. E continuano a replicarlo. A Edward John Trelawney, Kentish Town, 4 marzo 1827. Non sei felice, ma chi ha una natura nobile e generosa ed è felice? Amico mio, dal cuor gentile, non è solo perché la tua volontà è strabordante e i tuoi mezzi miseri. Se tu fossi più ricco, a tormentarti sarebbe l'ingratitudine, la stravaganza e la volubilità. Ma approvo con un solenne amen il tuo anatema contro la povertà, foriera di strazio e disperazione incommensurabili. Sono povera e un tempo ero ricca. Vivo tra i bisognosi, circondata dall'indigenza. Il destino mi ha sempre portato a legarmi con amici magnanimi, generosi, incapaci di dare valore al denaro se non per il bene che può provocare. E sono tutti ancora più poveri di me. È una vita dura, ma tornando a te, di tutto il più caro altruista, mi rendo davvero triste sapere che sei in difficoltà. Ma non prendertela con gli anni e con la povertà, sono cose che non ti riguardano. Considera che sarebbe davvero un miracolo se tu arrivassi alla vecchiaia. Potrebbe sembrare una strana forma di consolazione se fosse rivolta a un altro, ma tu e io abbiamo troppo del puro spirito del fuoco nelle nostre anime per desiderare di vivere fino al tempo in cui la fiamma tremola e si affievolisce. Concentrati su questi pochi anni presenti. Vieni, amico caro, leggo di nuovo le tue frasi melancoliche ed esclamo: Vieni, vediamo se riusciamo a trarre del bene dal male. Forse non saprò gettare un raggio di sole sul tuo cammino. Ma almeno ti guiderò al mio meglio attraverso l'oscurità. Non dimenticherò mai quanto ti devo. Sentimenti di questa intensità non crescono in un istante. Devono aver vissuto per anni, fiorire in sorrisi e mantenere la loro freschezza in affiati di lacrime. Per provarli si deve aver navigato a lungo il viaggio della vita assieme, affrontando gli stessi pericoli, confortandosi delle stesse paure e dagli stessi dolori. E così è per noi. Al pensiero di te, amico caro, questi caldi sentimenti, che vengono dalle radici stesse del mio essere, mi riempiono gli occhi di lacrime. Ci vedremo presto, Mary Shelley. Prosper Mérimée, Parigi, 31 maggio 1828. Le restituisco la sua lettera perché non sono una civetta, non voglio tenermi l'espressione di questi suoi sentimenti di cui lei più avanti potrà pentirsi, nella prova di ciò che potrebbe apparirle come una debolezza. Mi chiede la mia amicizia, è sua, sarò sempre sua amica se lei continuerà a desiderarlo e se, perdoni il modo di esprimersi di questa donna, dettato dall'orgoglio e non dalla civetteria, continuerà a meritarlo. Le scriverò e spero di rincontrarla a Parigi e a Londra. Mi tenga informata sulle sue speranze, sui suoi successi, sulla sua felicità o, se dovesse accadere, sulla sua infelicità. Troverà in me un'amica comprensiva, tenera e sincera. Al generale Lafayette, Londra, 11 novembre 1830. Caro generale, con immensa timidezza che una modesta persona come me si rivolge all'eroe di tre rivoluzioni, eppure non posso negarmi il piacere di congratularmi con questo eroe nell'ora del suo ultimo e decisivo trionfo. Di fronte agli occhi del mondo la Francia si è redenta, mondandosi delle sue recenti macchie con i sublimi eventi di questo luglio. Ogni cuore d'Europa risponde alla possente voce che si è elevata nella vostra metropoli proclamando la libertà al mondo. Quando questa parola è pronunciata, una ad una le nazioni cominciano a riecheggiarla e non ultima sarà la mia. Possa l'Inghilterra imitare la Francia per moderazione ed eroismo. Si spera che qualunque cambiamento operato nel nostro paese origini dal governo. Il nostro re è in cerca di popolarità, è incurante delle opinioni altrui e orientato per legami familiari verso il partito liberale. Ricorrerà volentieri a ogni mezzo per il bene del popolo. E ciò nonostante siamo in una posizione critica e terribile. Quali contromisure potranno azzerare il debito e in questo modo ridurre la tassazione che corrode le prospettive di sopravvivenza delle popolazioni che soffre in questo paese? Perdoni, generale stimatissimo, una donna che arrischia simili osservazioni. Sono stata la moglie di un uomo che aveva care le opinioni che lei ha sposato e di cui è al contempo campione e vanto. E partecipare emotivamente a successi che lo avrebbero riempito di gioia mi sembra un mio sacro dovere. Sono profondamente consapevole della mia incapacità di comprendere o affrontare temi così elevati, ma esulto all'idea che la causa a cui Shelley dedicò la vita è ora coronata dal successo. Lei e la sua amata famiglia avrete di certo dimenticato l'estranea che per un brevissimo periodo, molti anni or sono, vi fece visita in circostanze disastrose. Confido che un giorno il destino mi riporterà da voi per potervi rendere di nuovo omaggio di persona. Nel frattempo ho la soddisfazione di poter ricordare che, benché malata e alienata da me stessa, come ero a Parigi all'epoca, ho fatto la conoscenza del suo cittadino più illustre. Posso vantarmi di aver conversato con Lafayette. Con il suo più alto rispetto, Mary Shelley.